fedel, uscita appena dalle mani di Cloto, con gli occhi e lingua parlo sì che potea disperare ogni amante. Andromeda infedel, terzo d'inganni, este mi disse che da riso scende un fuoco in lei maggior ogni altro fuoco. Thank you. Thank you. Thank you. è mica sorte, tanto m'affligge tanto, e se ben tu non vedi quest'occhio a lacrimar, ne scopri il pianto. D'amor amar non voglio, androne dallo sai, ma che giusto il tuo Perseo fedel, che bello merta io porto, almeno non partire sì presto, ode pria che tu parta. La speranza è un delirio. Che rollo in questa guisa, l'amor mio tu disprezzi. Bella, con tal vigore, nella mia libertà servo il piacere. Piacere che troppo è fiero a quest'almo d'aliso, che vive. Ma piacere che mi giova. A dirmi sento, disdegno che mi formare. Te lo dissi ancora, non voglio amore. Ah, Questa la mia vendetta, ed è sì, è vero, ma sul pepro. la speranza, la gelosia, l'amore, mi fecero soffrir pene di morte, le or della tua sorte, via chi t'ama e disprezza, tu standi adorator, serpa la fede. Thank you.

ti tardi più. Vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori acconti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non v'è chi più di me gova di mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Che i gravi miei danni tanta pietà ti avesti e mi ricordo creder non ti posso bugiardo adorator e mia fortuna abbiamo perso al tempio e vi si chiudo in presenza dei nomi il vuoto il giorno chiudasi. Quindi nasca l'augurio fortunato, buon amore tra noi sempre beato. Nel mio tormento di donna dal goder spinto il più bello il godimento ne via torrento ne via torrento di colla dal godere

mai più bello il godimento, né via tormento, né via tormento vi colla dal godere. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。